Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui come sempre ogni venerdì vi sarà anche la poco invidiabile classifica del programma, ma come approfondimento cercheremo di capire dopo la copertina di ieri dell'Economist e dopo invece analisi opposte da parte del Financial Times di capire cosa tra virgolette bolla in pentola negli investitori internazionali alla luce del nostro referendum, con le premesse che stiamo facendo da settimane che è sbagliato legare le sorti dell'economia a breve al referendum, che è un referendum sulla nostra forma costituzionale, però è anche giusto ricordarsi che con tutta l'enfasi che è stata posta sia da un lato che dall'altro e con i timori che vi sono sull'Italia, non tanto sul referendum ma sulla possibilità che l'Italia avrà di ricapitalizzare le banche che necessitano di essere ricapitalizzate, quindi in primo luogo Monte dei Paschi e Unicredit, con le prospettive di crescita modeste della nostra economia 0,8-0,9, è chiaro che qualunque non pretesto ma qualunque elemento è buono per andare a speculare sull'Italia, e la speculazione ce l'avremo il 5 di dicembre o in un senso o nell'altro. Dopodiché il ragionamento deve essere un pochino più articolato, perché lo dico subito, c'è chi dice attenzione, dipenderà anche dai rapporti con cui vincerà il no o vincerà il sì, e questi rapporti di forza, diciamo così, potrebbero terminare in un caso o anche nell'altro un ricorso alle urne, ed è questo forse l'elemento a cui più guardano i mercati, immaginando che un'Italia che vada a elezioni possa ovviamente avere una maggiore incertezza anche nelle politiche da adottarsi. Comunque ne parleremo, perché insomma, giudizi diametralmente opposti tra Financial Times ed Economist la dicono lunga su come su quanta indecisione e anche poca uniformità di giudizio vi sia perfino in chi ci osserva dall'esterno. Visto che parlavamo di mercati post referendum, segnalo che oggi invece Milano è quasi invariata, più 0,12%, come le altre borse europee, perché Parigi fa lo 0,16%, Francoforte invariata, Londra più 0,13%, Dow Jones più 0,30%. Bene anche oggi Generali, più 3,56% dopo il piano industriale, IUX più 3,25%, tra l'altro oggi è il famoso Black Friday in cui non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa ci sono forti promozioni per chi vende online. IUX Net-a-Porter si avvantaggia di questo. Terna più 1,40%, Campari più 1,30%, Banco Popolare più 1,20%, Pop Milano più 1% come Telecom Italia. Il fronte opposto invece vede calare Saipem del 2,33%, Mediobanca dell'1,20%, Fiat Chrysler dell'1% come Buzzi, Unicem e Ferrari, ma anche CNH Industrial. Euro ha recuperato quota 1,06, ma oscilla sempre tra 1,05 e 80, 70 e 1,06. Ultima cifra prima delle notizie in breve, quella per i vostri messaggi, a chi mi chiede già se vi sarà comunque il caso virtuoso della startup. Sì, certo che vi sarà. E oggi a mio avviso particolarmente interessante, perché è un caso di ex dipendenti che salvano in qualche modo l'azienda rilanciandola. Oltre alla startup parleremo di borsa e dell'orientamento, delle preoccupazioni dei mercati internazionali che, ripeto, non sono solo in automatico vince il sì o vince il no. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Rapidamente quelle di carattere internazionale. Oggi c'è stata una leggera flessione, e non neanche tanto leggera, del 2% quasi, sul prezzo del petrolio a $47 al barile. Perché? Perché quando sembrava ormai tutto fatto, in vista del vertice di lunedì prossimo tra paesi OPEC e non OPEC, per arrivare a un tetto alla produzione, quindi sostanzialmente tornare a far salire il prezzo del petrolio, l'Arabia Saudita si sarebbe tirata fuori dalle trattative con i paesi non OPEC, cioè che non fanno parte dell'organizzazione che da sola rappresenta il 60% della produzione. Di questi paesi non OPEC il più importante è chiaramente la Russia. Mentre per quello che riguarda l'economia internazionale, ma questa volta in India, già ieri abbiamo raccontato dei cali fortissimi della rupia nei confronti del dollaro, ha toccato il minimo da 3 anni a 68,73 rupie per un dollaro. Oggi la banca centrale indiana è intervenuta a sostegno della rupia. Tra l'altro ci sarebbe anche un altro elemento a indebolire la rupia indiana, che è molto, molto locale, molto indiano, e cioè il governo di New Delhi lo scorso 8 novembre ha deciso di mettere fuori corso le banconote da 500 e 1000 rupie per in qualche modo restringere e fare una pressione restrittiva sull'uso di denaro contante. La presa bene invece, andiamo alla Turchia, Erdogan, la decisione del Europarlamento che ha chiesto alla Commissione Europea ieri di congelare i negoziati di adesione di Ankara all'Unione Europea. Ora, siccome già prima del tentato golpe si ragionava molto sul fatto che la Turchia sì potesse entrare nell'Unione Europea, ma a patto di riconoscere i diritti civili e politici che vengono riconosciuti in tutta l'Unione Europea, mi riferisco ai curdi ma non solo, dopo quella che è stata la reazione definita da ieri dal Parlamento Europeo sproporzionata, mi sembra che parlare di diritti civili, di libera informazione, diciamo diritti politici in Turchia, non so, sia come parlare in questo momento di bel tempo nel nord-ovest d'Italia. Allora la decisione dell'Europarlamento onestamente è abbastanza comprensibile, ma non ci sta Erdogan, perché oggi dice torna a minacciare una rottura dell'accordo sui migranti con Bruxelles e dice: se l'Europa si spingerà troppo oltre permetteremo ai rifugiati di passare dai valichi di frontiera. Come si chiama questo in turco? Ricatto? Anche perché questi toni non li ho sentiti da Erdogan quando accolse i 3 miliardi che l'Unione Europea gli ha dato. Lì c'era una pressione forte anche della Germania su questo, perché i flussi migratori lì arrivavano spesso e volentieri verso la parte dell'Europa centrale, non come quelli, diciamo, del nord, della parte nordafricana, che arrivano invece sulle nostre coste. E devo dire che anche in quell'occasione, a mio avviso, l'Unione Europea poteva essere un pochino più stringente. Sembrava quasi che ci facesse un favore alla Turchia. Ho capito, prendi 3 miliardi di euro però per tenere, diciamo, i migranti nelle tue frontiere. Comunque questa è la reazione oggi. Andiamo all'Italia, dove a proposito del tema che affronteremo nella seconda ora del programma, oggi è tornato a crescere lo spread tra BTP italiano a 10 anni e l'equivalente tedesco a 10 anni. Ha superato il tetto dei 190 punti. Ripeto ogni volta, non è ancora un livello preoccupante, nel senso che governo Berlusconi e Monti avevamo lo spread tra i 500 e i 300 punti, però è il livello più alto dall'ottobre del 2014 e continua infatti a salire il rendimento del BTP italiano a 10 anni del 200 buonanotte, rende il 2,13%. È salito comunque anche lo spread spagnolo a 135 punti, ma segnalo che comunque la Spagna ormai da un paio di mesi, vado a memoria, ha uno spread più basso del nostro, nettamente più basso del nostro, 60 punti, cioè siamo tornati a essere considerati più rischiosi della Spagna. Allora, secondo Commerzbank, gli analisti di Commerzbank, l'esito del voto italiano influenzerà anche le decisioni della Banca Centrale Europea. In caso di vittoria del no, sarà più urgente proseguire con lo stampaggio di euro, il quantitative easing di Mario Draghi, quello che vede più o meno emettere 80 miliardi di liquidità sul mercato ogni mese, e che dovrebbe finire, o meglio, è sicuramente in atto fino a marzo 2017. Poi la BCE si è tenuta le mani libere sulla prosecuzione del quantitative easing. Ancora Renzi oggi risponde l'Economist, anche Padoan, ma ne parliamo dopo nella seconda ora del programma. Padoan però esclude attacchi speculativi e vabbè. Nel frattempo il via libera dell'aula della Camera alla fiducia chiesta dal governo sulla legge di bilancio. I sì sono stati 348, contrari i 144 deputati. Adesso si passa alla discussione degli ordini del giorno. Il voto finale è previsto per lunedì pomeriggio, il testo poi passerà all'esame del Senato. E sappiamo che se dovesse essere modificato al Senato dovrebbe tornare poi alla Camera, la cosiddetta navicella di cui molto si parla adesso, vista la proposta di riforma del Senato e riforma di buona parte del passaggio al Senato appunto nel referendum. Ancora dicevo, il relatore Guerra del PD ha spiegato che restano aperti tre capitoli da affrontare durante l'esame del Senato: estensione del bonus per le ristrutturazioni energetiche, antisismica e cosiddetti incapienti, e poi interventi sugli enti locali e misure che rafforzino la prevenzione antisismica. Tra gli emendamenti approvati ce n'è anche uno di cui molto si è parlato, anche per è un caso economico ma è anche un caso di colore. Mi riferisco allo stop a tutti i bagarini e non solo a quelli online per i concerti, con multe fino a 180.000 euro. Sentiamo i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Con il 62esimo voto di fiducia del governo Renzi, oggi prende forma quasi definitiva la legge di bilancio per il prossimo anno. Nel passaggio alla Camera si è appesantita di 540 milioni e nel complesso quindi la manovra finale sale da 26,5 a 27 miliardi. Le modifiche più consistenti sono arrivate in tema di pensioni. La prima è la possibilità di cumulare gratuitamente contributi versati in diverse casse previdenziali e viene estesa anche al mondo delle professioni. Poi è stata ampliata la platea degli esodati, che potrà beneficiare dell'ottava finestra utile a modificare il vuoto normativo lasciato dalla legge Fornero per chi ha perso i requisiti del pensionamento nel momento in cui ha deciso di lasciare il lavoro, quando invece valevano le regole precedenti, e nel complesso diventeranno 30.000 lavoratori interessati. Per le donne è stato deciso l'accesso all'anticipo pensionistico, cioè la nuova forma di pensionamento anticipato flessibile, quando si abbiano 35 anni di contribuzione, e questa novità vale per chi sia nata negli ultimi tre mesi del 57 e del 58. È previsto anche un disboscamento delle norme per ottenere il pensionamento per chi si è impegnato in lavori usuranti. Era una semplificazione attesa da tempo e quindi è una buona cosa. Nel complesso il temuto assalto alla diligenza non c'è stato e le nuove modalità di definizione della legge di bilancio hanno aiutato ad alzare gli argini. Vedremo ora se al Senato verrà mantenuta la stessa linea di contenimento. Sarà un po' più difficile perché il budget dei senatori, 300 milioni, uguale a quello dei colleghi della Camera, si è già quasi tutto consumato, evidentemente per lo sforamento realizzato proprio dai loro colleghi di Montecitorio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti con ancora due notizie che riguardano l'Italia, poi partiamo con la classifica. Io non capisco, cioè il paese che il paese sia spaccato in due su questo referendum lo sanno anche i sassi, però non capisco perché mi debba scrivere un ascoltatore da quanto è fazioso spero che vinca no. A parte il fatto che se scrive così lei spera comunque che vinca no, non usi me come scusa. Io ho solo detto che la, diciamo, navetta parlamentare del passaggio tra Camera e Senato, Senato-Camera, se viene modificata la legge, è quello che il referendum punta a eliminare. Almeno questo si può dire, no? Poi invece uno può dire no, è giusto che vi sia anche il Senato tutto elettivo perché vogliamo un doppio controllo. Per carità, ma insomma, almeno sui fatti possiamo stare che, stando al referendum, il passaggio al Senato viene ridotto, il calcolo che è stato pubblicato anche nel caso delle ultime leggi sarebbe venuto solo 5 volte nell'ultimo anno, comunque viene ridotto. Poi uno può dire è sbagliato, occorre anche il controllo del Senato, perfetto, ma stiamo sui fatti, eh? Allora, invece due notizie. Una riguarda, non è buona, commercio e fatturato ordinativi dell'industria. Allora, non è buona nel senso che a livello di anno su anno il fatturato della nostra industria sostanzialmente è rimasto, il calo degli incassi è fatto meno 0,3%, mentre gli ordinativi hanno fatto più 2,6% come dato grezzo. Diciamo, e va male il fatturato, meglio quello che rallenta e zavorra il fatturato delle imprese è soprattutto il mercato interno, addirittura meno 5,5 sul mese precedente, meno 1,3 sull'anno prima. Invece il mercato estero fa ancora più 1,7% sull'anno prima. E infatti il dato viene confermato da un'altra indicazione che arriva dall'Istat: a settembre le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,6% rispetto ad agosto, sia in volume che in fatturato, e soprattutto, cosa più importante, perché i dati sono stagionali sui consumi, quindi si va a vedere un anno prima, rispetto a settembre del 2015 c'è un calo dell'1,4% in valore e dell'1,7% in volume, che vuol dire che i consumi sono di nuovo al palo. La flessione più marcata riguarda i prodotti non alimentari, meno 1,6% in valore e meno 2% quasi in volume. La buona notizia invece riguarda la ST di Terni, ne parleremo la prossima settimana, che torna in positivo dopo 8 anni. Gli acciai di Terni, 3,3 milioni di utile nell'anno fiscale 2015-2016, e questa quindi non è più la ST di Terni nella lista delle aziende italiane in crisi, e questo a noi fa sempre piacere. Mentre, visto che parlavamo di consumi, dato di settembre non buono, previsioni invece di quello che capiterà tra oggi e lunedì, oggi Black Friday, moltissimi sconti del 25% per gli acquisti online, e lunedì ci sarà il Cyber Monday, o insomma altro momento e possiamo dire pretesto, scusa, per acquistare online. Ci si attende da un lato un grosso aumento dei volumi, dall'altro però sono preoccupati anche i commercianti, che hanno chiesto spiegazioni, che cosa possono fare loro, cioè chi parla di concorrenza sleale da parte di chi vende online. Mentre c'è questo dibattito, polemica in corso, ieri nel corso del premio annuale Ernst & Young, 20ª edizione, premio imprenditore dell'anno, ecco, il premio imprenditore dell'anno l'ha vinto Federico Marchetti, che magari a molti non può dire tanto, ma è il numero uno, oltre che l'amministratore delegato di Yoox Net-a-Porter, e quindi il principale gruppo in Italia che lavora sul commercio online. Ha seguito la premiazione il nostro Sergio Nava, che ha appunto intervistato Federico Marchetti. L'Italia è sempre stato un paese innovativo. Certo che l'innovazione italiana, vabbè, che parte in realtà, il primo che si è inventato internet è stato Leonardo da Vinci, quindi pensa te perché se vai a rileggere i suoi codici eccetera eccetera, parla di questo strumento che ad un certo punto della storia unirà tutti i popoli del mondo senza che debbano parlarsi e si risponderanno da lontano. Questo è quello che diceva Leonardo da Vinci, quindi diciamo che l'innovazione è nel DNA degli italiani e dell'Italia. Poi ci sono stati gli anni 50, 60, dove l'innovazione è passata soprattutto attraverso il prodotto, perché comunque l'innovazione non passa solo attraverso il digitale, passa attraverso tante cose, i processi, il prodotto e compagnia bella. Adesso siamo davanti a una rivoluzione industriale, che è quella del digitale, dove l'Italia può, dal punto di vista dei talenti, può fare ancora tantissimo. C'è un ecosistema che permette di farlo? Perché insomma ci sono molte startup ma pochi capitali. Ma allora, secondo me non è il problema dei capitali. Allora, certo che se fossimo nella Silicon Valley, dove ci sono 50.000 venture capitalists bravissimi, fortissimi, con un sacco di soldi, certo che sarebbe più facile, questo ovvio. Però il problema dall'idea è più sull'execution. Cioè, nel senso che tra i capitali e l'execution, la cosa più difficile è sempre l'execution. I capitali, ad esempio nel mio caso nel 2000, c'erano due venture capital in croce in Italia più o meno, e i capitali li ho trovati. Quindi mi hanno dato credito, penso perché pensavano che io potessi passare dall'idea all'execution. Quindi insomma diciamo che i capitali non è la cosa più importante, la più importante è l'idea, l'imprenditore, l'execution, cioè alla fine le persone. Le persone sono molto più importanti dei capitali. La classifica della settimana. Allora, chiedo e invito gli ascoltatori che vogliono a tutti i costi scrivere sul referendum. Scrivete, noi non ne parliamo, ne parleremo sulle conseguenze e sulla visione che hanno i mercati alle 18. Però io dico una cosa, uno può votare no, può votare sì, ma non è che può incavolarsi ogni volta. Io non ho detto che scompaia il Senato, ho detto che a parte alcune materie specificate nella riforma, si ridurrà di molto la cosiddetta navetta, cioè il passaggio Camera-Senato, va bene? Allora, delle due l'una, se ho sbagliato non capisco perché si dica che viene eliminato, che viene ridotta la possibilità di controllo del Senato. Se ho ragione, e nel senso ho letto semplicemente il testo che c'è, adesso lo leggo anche per esteso, è il motivo per cui infatti i fautori del no dicono è sbagliata questa legge, perché il Senato non viene eliminato completamente, ci sono sette materie e poi comunque ci sono i consiglieri, i sindaci di 18 città. Perfetto, uno lo può pensare come vuole, ma non puoi dire che da un lato si riduce la democrazia perché il Senato diventa un quacervo e altre cose, e poi negare che ci sia meno navetta parlamentare. Poi uno può essere contento di come è la situazione adesso, lo dico con massimo rispetto, e tanto non dirò mai che cosa voto, ma non si può negare l'evidenza, e cioè che è il motivo per cui viene criticata anche questa riforma. Okay. C'è poi chi la critica perché dice che non elimina completamente il Senato, vero anche questo, e che quindi il Senato continua ad avere un suo ruolo sulle leggi europee, verissimo, ma possiamo essere d'accordo almeno su un punto, che a uno piaccia o non piaccia, che il Senato avrà un ruolo minore, che le materie, se non ricordo male, se lo dico con esattezza, sono sette, almeno questo? Mamma mia. Uno può anche dire che è contento di tenersi il CNEL, che le regioni devono avere ancora, e pensarlo correttamente, che le regioni devono avere potere di indirizzo, per esempio, nella promozione turistica. L'importante è, no, almeno stiamo sui fatti, poi uno la pensa come vuole. Allora, andiamo con, prima del referendum, andiamo con la classifica, anzi facciamo una bella cosa, andiamo col meteo perché adesso siamo già lunghi, poi partiamo con la classifica. ATAC, scioperi, mezzi pubblici, parliamo, ma al primo posto non ci sarà, no, oggi Regioni del Sud. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la classifica. Ho promesso però che leggevo. Allora, la classifica della settimana. E vai con la classifica della settimana. Allora, vedo molti messaggi. Abbiamo detto molte volte che è stato sbagliato sia da una parte che dall'altra, a partire dal Presidente del Consiglio, creare questa attesa così in qualche modo apocalittica sul referendum, un referendum di riforma costituzionale. Non, il mondo non finisce, l'economia non avrà, diciamo, immediatamente né un vantaggio né uno svantaggio, al di là dei mercati, delle speculazioni, di cui parleremo dopo. Quindi su questo l'esagerazione, l'enfasi posta, sono d'accordissimo. Detto ciò, non si può contestare tutto, uno può essere d'accordo o no, votare sì o no, ma non può smentire quello che è il testo della riforma. Allora, se dico che il Senato viene ridotto come funzione, intanto non ci sono più i senatori ma sono appunto i consiglieri, ma soprattutto che per l'approvazione del Senato sarà obbligatoria per le riforme elettorali e costituzionali, quelle che riguardano comuni, città metropolitane e per il referendum, tutte le altre verranno votate solo dalla Camera e entro 10 giorni il Senato potrà decidere se proporre delle modifiche, con un terzo però dei voti. Questo è nel testo, poi la Camera avrà 30 giorni per inviare le sue proposte di modifica, il Senato avrà 30 giorni per inviare le sue proposte di modifica alla Camera, che potrà accoglierle o non accoglierle. Così come, se dico che viene tolto il potere delle regioni, uno può essere d'accordo o no, può ritenere che le regioni svolgano egregiamente il loro lavoro in alcune materie, ma non può dire che non è così nel testo. E infatti scompaiono una ventina di materie di competenza regionale che diventano di competenza esclusiva dello Stato. In alcuni casi eravamo in situazioni di legislazione concorrente, cioè si andava a un conflitto Stato-Regioni. Nello specifico ambiente, fisco, infrastrutture, trasporti, navigazione, energia, politiche per l'occupazione, beni culturali e turismo, le regioni mantengono invece le competenze sul governo del territorio, assistenza sociale e sanitaria. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma questo è il testo. Detto ciò, andiamo con la classifica, che è meglio, si fa per dire. Partiamo dall'Atac, visto che oggi trasmettiamo da Roma, non perché trasmettiamo da Roma, ma insomma, con tutto quello che abbiamo raccontato dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma, e non solo del ruolo improprio che i sindacati hanno gestendo mense e quant'altro, e dopo lavoro, addirittura le macchinette, ma nel fatto che c'era anche un dipendente poi fatto fuori dall'ex direttore generale, fatto fuori a sua volta dalla nuova giunta. C'era anche un dipendente che era praticamente fornitore degli pneumatici dell'ATAC. Ma vi sembra normale che in un gruppo che perde quello che perde, che ha sostanzialmente 11.870 dipendenti, la municipalizzata più grande d'Italia, e se non ricordo male la più grande d'Europa come dipendenti, metà degli operai Fiat in Italia praticamente è il numero di dipendenti dell'ATAC. Dicevo, vi sembra normale che in un'azienda dove i distacchi sindacali l'anno scorso sono stati pari a 111.664 ore contro un monte a disposizione di 11.280, ma soprattutto, che vuol dire che se quest'anno viene confermata la cifra di 131.000 distacchi, è come se 82 persone all'ATAC non avessero mai lavorato. E questo è chiaro che non è così, ma è l'equivalente di 82 persone, un costo per l'azienda di 3.772.000 euro, con distacchi continuativi presso di alcuni di questi che non si giustificano. Ma dico, con tutta questa, diciamo, rappresentanza sindacale, mi dovete spiegare come mai oggi il trasporto pubblico a Roma è praticamente paralizzato, metro A e C chiuse, per uno sciopero indetto da una sigla sindacale dell'ATAC che, stante l'ultimo dato, cioè 20 maggio scorso, ha raccolto il 2,6% delle adesioni. Ora, se tu rappresenti il 2,6%, se lo chiede oggi il garante degli scioperi, Passarelli, che chiederà all'ATAC informazioni puntuali, perché l'ATAC ha deciso, per l'agitazione sindacale di questa sigla, per non saperne leggere né scrivere, ha sospeso le corse. Ora, tra il tempo, il traffico e il fatto che venerdì, cioè, sono code in tutta Roma. Questa l'ATAC, a cui diamo il quinto posto, assieme però all'AMAT. Che cos'è l'AMAT? È l'ATAC di Palermo, cioè la municipalizzata dei trasporti. Allora, nonostante l'AMAT riesca a perdere 15 milioni di euro, cioè servono 15 milioni per chiudere il bilancio, non riesce a chiudere il bilancio, incassa 7 milioni e mezzo tra biglietti e abbonamento, l'ATAC non riesce neanche a garantire il servizio, che questa è la cosa che mi fa. L'AMAT non riesce neanche a garantire il servizio. Ci sono autobus che si fanno attendere in media 32 minuti, con picchi di 70 minuti. La sera diventano introvabili a Palermo, dalle 21.30 ci sono solo 14 bus disponibili. Ogni giorno manca all'appello un autista su 10. E l'AMAT riesce a mandare in strada solo 200 mezzi, praticamente un mezzo ogni 3.300 abitanti. A Milano ce n'è uno ogni 600 abitanti. Tra l'altro ci sono i guasti, più o meno un autobus ogni 20 è in rimessa, uno ogni 20 torna in rimessa a metà servizio, se rompe proprio. La 101, che è la linea più importante, ha 16-20 mezzi al giorno ed è stracolma, e non si riesce a usare nuovi mezzi. Perché? Perché ce ne sono in rimessa più di 400, però tra guasti e assenze non si riescono a integrare nuovi mezzi. Tra l'altro, la cosa interessante è che la notte a Palermo inizia molto presto, perché dalle 21.30 inizia il servizio notturno. Ora, io capisco tutto, ma forse in Finlandia in questo periodo il servizio notturno può iniziare alle 21.30. Dalle 21.30 alle 6 del mattino, quindi non ci sono più i servizi di linea, e ci sono quelli notturni, che in tutto appunto sono 14, che coprono solo 4 itinerari con una frequenza di 30 minuti. Anche il tram chiude alle 22. Faccio notare che a Milano, e un raffronto lo devo usare, i bus di linea e metro e tram sono in servizio fino all'una del mattino. A Roma, visto che avevo appena criticato l'ATAC, la notte sono garantite 540 corse con una frequenza di 15 minuti. Tra l'altro, sui tram e gli autobus a Palermo, secondo le stime dell'AMAT, viaggiano gratis 1 milione di passeggeri al mese. Ora, con 1 milione di passeggeri al mese che non pagano il biglietto, quante multe saranno state emesse? negli ultimi mesi, 1 milione al mese, diciamo da gennaio qua facciamo 9 milioni, 11 milioni in novembre di passeggeri, 1800 multe da gennaio, il che vuol dire sostanzialmente che con una media di scarse 180 multe al mese, se sei 1 milione di abusivi portoghesi, di gente che non paga, e meno di 200 multe al mese, insomma, fai prima vincere al Totocalcio o al Lotto che essere beccato senza biglietto a Palermo. Io vorrei restare a Palermo per il quarto posto e poi andare sul traffico, perché la settimana scorsa ci siamo occupati dei fondi europei, di come la Sicilia stia cercando di recuperare 770 milioni di fondi non utilizzati ex post, con il rischio che vengano bocciati da Bruxelles e con obiettivamente delle volte giustificazioni assurde. Adesso i fondi europei però, diciamo, sappiamo che c'è un problema in Sicilia, perché spesso, non solo in Sicilia, chi dovrebbe beneficiare di questi aiuti non sa come partecipare a bande e appalti, non sa neanche che c'è l'appalto e non sa come partecipare a un bando. Allora la regione, sempre attraverso i fondi dell'Unione Europea, ha deciso nel 2016 di finanziare 16 eventi tra convegni e seminari per far conoscere ai siciliani la nuova programmazione e anche la vecchia programmazione. Ottimo il proposito, peccato che sia una caccia al tesoro. Che cosa è la caccia al tesoro? Allora, c'è un primo bando da 200.000 euro che è stato aggiudicato a 150.000 euro, che riguarda la realizzazione di 14 giornate di incontri su temi legati al programma operativo 2014-2020. Peccato che nel bando la regione non dica dove verranno organizzati questi eventi per conoscere i fondi europei, neanche a quale target, a quale pubblico si riferiscano. Allora, la sede non è precisata, sarà comunicata successivamente, caccia al tesoro. E poi, se l'amministrazione non dovesse riuscire a indicare per tempo la sede, la ditta che vince l'appalto dovrà farsi carico per un massimo di 4 volte di individuare e proporre una sede idonea alla tipologia di incontri. Qual è? Dice, vabbè, già la sede non ce l'ho, ma a quale pubblico ti rivolgi? Al seguente pubblico: opinione pubblica, imprese, amministratori, enti pubblici, associazioni, professionisti, ordini professionali, deputazioni, organi di stampa e altri portatori di interesse. Praticamente hanno escluso solo Pippo, Pluto e Paperino, cioè tutti gli altri ci sono. Aspetta, perché non è finita. L'unica cosa certa, il luogo non si sa, il pubblico è manca un marziano, appunto, e la famiglia Walt Disney, però quello che è certo, e questo mi fa impazzire, che in questi 14 convegni devono essere distribuiti 2100 pieghevoli, 2100 shopper contracolla, 2100 pendrive, chissà perché 2100. Poi la ditta che vince l'appalto dovrà affittare una navetta Gran Turismo per il trasferimento di funzionari dell'amministrazione e relatori. Ma trasferimento da dove, se non si sa ancora il luogo? Da Palermo ai luoghi di svolgimento degli incontri, caccia al tesoro. E poi attenzione, perché è molto dettagliato il bando sul pranzo, è perché, capito, Francia o Spagna, perché se magna. Il lunch, chiamato lunch, per complessivi 100 coperti nei 14 eventi, e il menù deve comprendere acqua minerale, vino, birra, un primo a scelta, un secondo con contorno, frutta fresca di stagione e caffè. Oh, non sai il luogo, non hai ancora capito a chi ti rivolgi, ma sul pranzo in questo paese al pranzo non si sfugge. C'è anche un secondo bando da 90.000 euro per organizzare 3 eventi di comunicazione, sempre per far conoscere i fondi europei ai siciliani. Anche qui, pubblicato qualche mese prima, la parte più dettagliata riguarda il catering lunch, vuol dire quello che si mangia a pranzo. Catering lunch per complessive 650 persone. E il menù doveva comprendere acqua minerale naturale gassata, vino siciliano DOC bianco e rosso, un trittico di antipasti, 2 primi di cui almeno uno con condimento di pesce fresco, 2 secondi di cui uno di pesce fresco, un contorno e poi dolci tipici siciliani. Tutto fondamentale quando fai un bando da 90.000 euro per spiegare i fondi europei ai siciliani. E i menù devono essere differenti per i 3 eventi. Ma vuoi mettere se un relatore o un funzionario mangia la stessa cosa per 2 volte di fila? Si è aggiudicata l'asta partenza di base 90.000 euro per 58.000 euro da Biba Tour, eventi già realizzati a Palermo e Trapani. La prima gara che ho citato invece, 206.000 euro, molte ditte non hanno partecipato, per quale motivo? Beh, se non si sa dove, dicono testualmente, se non si sa dove si devono organizzare 14 eventi, come si può presentare un preventivo dettagliato? Amore, ma vuoi tutto, Vuoi tutto. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora, al terzo posto risaliamo lo stivale e andiamo in Lombardia. Al terzo posto vi dico già che risaliremo fino a un certo punto, perché poi c'è Veneto e Toscana. Quanto ho? 30 secondi? 20 secondi? E cosa posso fare in 20 secondi? Dichiarare guerra alla Svizzera. Allora, aspettiamo un attimo, intanto do la chiusura di borsa e poi facciamo il resto della classifica dopo il GR24. Brutta chiusura per il Monte dei Paschi, meno 13%, dubbi sulla realizzabilità del piano, poi ne parleremo. E il resto invece è Saipem, meno 2,60%, Mediobanca, meno 1,30%. Bene, come dicevamo, Jux, Net-a-Porter, più 3,70%, Generali, giudizio positivo dopo il piano industriale, più 3,11%, Italgas, più 1,60%, Campari, più 1,5%, Telecom, più 1,30%, come il Banco Popolare e Terna e anche Fineco Bank. GR24, poi la classifica, il caso virtuoso e l'opinione degli investitori internazionali su cosa capiterà il 5 di dicembre in questo paese. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in digital radio. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al terzo posto della nostra classifica, la regione Lombardia, non la, ve lo dico per precisione, non nella sua attuale governo, nel suo attuale governo, quello con Roberto Maroni, ma nel governo precedente di Formigoni. Qui c'è il sospetto molto forte anche della Corte dei Conti che fossero avvantaggiate nel portale per il lavoro della regione Lombardia l'area Cielina. Non è un mistero che da sempre Roberto Formigoni sia stato vicino a CL, parte di CL. Allora, che cosa contesta la Corte dei Conti? Una pioggia di consulenze affidate in modo illecito per un totale di quasi 13 milioni di euro a e tra l'altro anche un esercito di dirigenti nominati non si sa bene perché, premi per tutti a prescindere dai risultati. Allora, la Corte dei Conti ha eseguito un'indagine sull'agenzia, sulla gestione dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, ente della Regione Lombardia che ha ottenuto fondi comunitari tra cui 20 milioni per la progettazione e costruzione di un portale in grado di garantire offerta di lavoro ai cittadini. Ora, gli incarichi e le consulenze esterne: 125 nel 2007, 71 nel 2008, 41 nel 2009, 20 nel 2011 e poi dal 2014, e poi vanno via a scendere perché dal 2014 arriva Roberto Maroni, non viene più attivato alcun incarico di consulenza esterna. In tutto 896 collaborazioni esterne illecite in favore di 515 prestatori. Già c'è un primo atto di citazione nei confronti di 4 responsabili in relazione a 117 consulenze nell'anno 2005 in cui costate complessivamente 1.200.000 euro. Viene contestato un danno erariale pari alla metà, quasi 556.000 euro, e ripeto, nel periodo 2005-2010 la Guardia di Finanza ha quantificato un esborso contra legem, quindi non giustificato, pari a 12.978.000 euro, perché oltre alle collaborazioni esterne illecite vi erano anche mancate la registrazione di impegni nella contabilità dell'ente, con la conseguente generazione di fittizie disponibilità sui capitoli di spesa che hanno obbligato poi la Regione Lombardia a ripianare con un contributo straordinario di 2 milioni e mezzo di euro. E allora, non corretta contabilizzazione degli impegni di spesa inerenti il portale Borsa Lavoro Lombardia, il ricorso spropositato ad affidamenti di incarichi professionali e di consulenze esterne, illegittima assunzione di personale dirigente a tempo determinato, oltre i limiti previsti dalla normativa, la distribuzione a tutto il personale di premi incentivanti in assenza della verifica del raggiungimento di specifici parametri di rendimento. Quindi possiamo dire che intanto il primo obiettivo che ha raggiunto in quegli anni l'Agenzia per il Lavoro della Regione Lombardia è far lavorare gli amici. Andiamo al secondo posto, e qui se lo becca una città molto cara al nostro premier. Mi riferisco a Firenze, di cui è stato sindaco. Perché lo cito? Perché io dico, siccome è una città, me ne frega niente a nessuno, in cui ho anche studiato e ho iniziato a lavorare, io ricordo benissimo quando 21 anni fa iniziò questo buco, iniziarono i lavori per creare il grande passante ferroviario per l'alta velocità. Cioè, praticamente c'è in questo momento un buco a Firenze di 450 metri di larghezza, 450 scusate per 60, profondo 10 metri. Che cosa doveva succedere? Doveva essere messo lì il passante ferroviario di 8 km sotto la città per il transito dell'alta velocità. 21 anni fa si bandisce un concorso per il progetto, lo vince lo studio dell'architetto britannico, Archistar, Norman Foster. Le ferrovie fanno l'investimento, da 700 milioni la spesa aumenta come panna montata a 1,5 miliardi. C'è qualche protesta, molti disagi. Il luogo prescelto desta qualche perplessità perché a 1 chilometro da Santa Maria Novella, però tutto va avanti, ci sono inchieste giudiziarie, ma neanche questo blocca i lavori. Allora, tra l'altro, a quel punto c'è pure Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che ottiene anche una promessa di indennizzo di 100 milioni di euro per la città, per i lavori. Ora, dopo 3 anni, quando il sindaco di allora di Firenze è diventato presidente del Consiglio, a marzo del 2016, a Palazzo Vecchio, il premier si presenta, presiede di fatto una giunta straordinaria, il sindaco chiaramente Dario Nardella, per fare il punto sui finanziamenti governativi per le infrastrutture della sua città. In quella occasione si decreta la fine dello scalo sotterraneo dell'alta velocità, quello che tutti a Firenze chiamano ormai stazione Foster. Per la società Condotte, che è subentrata al consorzio Nodavia, che aveva vinto la gara, è una sorpresa. Il punto è, abbiamo speso quasi 800 milioni. I cantieri sono fermi, le perdite viaggiano al ritmo di 2 milioni al mese, c'è un buco enorme in quella città, che cosa ne vogliamo fare? Ci stanno dentro 2 centri congressi, grandi come la famosa nuvola di Fuxas, o 5 stadi da calcio, uguali a quello di Torino della Juventus. Facciamoci 5 stadi da calcio? Non so. 2 centri congressi e 3 stadi da calcio? Decidiamo. Apriamo agli ascoltatori i suggerimenti per cosa fare in un'area che ha 10 metri di profondità ed è 450 per 60. Una grandissima piscina? Facciamoci l'enorme piscina. Perfetto. Ultimo posto. And the winner is... il consorzio Mose, ma anche il governo. Allora, del consorzio Mose, sapete cos'è, le paratie che dovrebbero salvare Venezia dall'acqua alta? Abbiamo detto di tutto, le indagini, i costi lievitati, praticamente più che raddoppiati, 8 miliardi spesi, 8 miliardi... 5,5 per il Mose e 2,5 per le opere di salvaguardia. Facciamo conto che a prezzi attuali avremmo costruito, con questi soldi, avremmo costruito 3 volte l'autostrada del sole a prezzi attuali. Qual è il problema adesso del Mose? Che ci sono i commissari del consorzio, appunto Magistro, ex ufficiale della finanza, Fiengo, ex magistrato, e l'ingegnere Ossola. Loro sono convinti di riuscire a portare a compimento l'opera almeno entro la metà del 2018, anche se nessuno lo scrive. Lo Stato nel frattempo ha stretto la cinghia, ma c'è un problema enorme sui controlli, perché i soldi non sono ancora arrivati. Fiengo spiega che in gran parte devono ancora vederli, i soldi mancanti. Però c'era stata una prima idea per accelerare questi lavori, di levare di mezzo tutta la legislazione dei lavori pubblici e recepire solo le direttive comunitarie che sono fatte bene. Poi però il Parlamento italiano ha tirato fuori 995 criteri di delega, 95. E quindi, anche se i costi della struttura sono ridotti all'osso, da 70 milioni la struttura per funzionare in Mosa adesso costa 12 milioni, metà in stipendi, sono un centinaio di dipendenti, il problema è che lo Stato in questo modo non ha il modo di controllare, già non ha controllato e chi doveva controllare non l'ha fatto. Io ricordo che nell'inchiesta il magistrato alle acque Patrizio Cuccioletta viene accusato anche perché gli venivano passati 400.000 euro al mese per fare che cosa? Evidentemente per occuparsi di altro, non lo so. Ma il problema, citano i commissari, se un organismo di controllo ha 100 persone in organico e dopo parte il MOSE, che è un'opera gigantesca con miliardi, vuoi rafforzare la struttura di controllo oppure no? Niente, zero, stesse persone. Pensate, è per questo che gli diamo il primo punto, perché uno, a forza di non rafforzare i meccanismi di controllo, a uno viene da pensare male. Pensate che sono riusciti adesso. C'è il provveditore, Roberto Daniele, che da quando è arrivato ha dovuto impratichirsi di tutti i dossier, di tutti i faldoni. Allora, Roberto Daniele, dopo averci messo non so quanto tempo a capire tutte le varie, i vari aspetti dell'inchiesta, se ne deve andare. Perché? Perché hanno deciso di avvicendarlo per il turnover dei dirigenti. Ho capito, ma se doveva finire tra un anno e mezzo mandato, lascialo un altro anno e mezzo, almeno questo va avanti. No, arriverà a brevissimo un nuovo provveditore che dovrà ripartire da zero e riguardarsi tutti i dossier e i faldoni. Oltre a questo, il responsabile per tutte le opere pubbliche che riguardano la salvaguardia di Venezia, si chiama Fabio Riva, è arrivato ad accumulare grosso modo il controllo di 500 appalti. Ma io chiedo, ma neanche Superman riesce a controllare da solo 500 appalti, ok? E invece niente. Allora io dico semplicemente al governo: si riesce a sbloccare almeno il tema dei controlli sul MOSE, fermo restando che c'è tutto un problema anche di responsabilità delle imprese, perché allora le cerniere starebbero funzionando, quello che non sta funzionando sono i tensionatori, che hanno già dato segnali di ossidazione, quindi deve ancora partire il MOSE e già si stanno ossidando i tensionatori. Se si dovessero sostituire tutti i tensionatori sarebbero altri 20 milioni di euro. Allora non si riesce a capire chi ne ha la responsabilità. Il progettista dice che ha sbagliato l'esecutore, l'esecutore dice che ha sbagliato il progettista, si va avanti così. I fornitori vogliono vedere i soldi. Pensate che, stando al capitolato, il MOSE ha una garanzia di durare 100 anni. Allora, faccio notare che Francesco Ossolo, appunto uno dei tre commissari, professore di ingegneria, sostiene che nemmeno su Marte esiste un materiale capace di durare 100 anni. Allora, per favore, l'applauso al governo: appena avrete finito di occuparvi del referendum, occupatevi, nello spazio che resta, anche del MOSE, di mettere in grado i commissari di chiudere sti cavolo di lavori dove tutti hanno mangiato, potendo fare i controlli, altrimenti, oltre al danno, c'è anche la beffa. Vabbè, non vi dico le proposte, gli ascoltatori sul buco a Firenze dove doveva passare l'alta velocità. Comunque, Enzo Muscia, fondatore e direttore commerciale di A9 Italia, buonasera. Buonasera direttore, buonasera agli ascoltatori. Allora Muscia, io adesso le chiedo un minuto di pazienza perché ho il traffico, e poi ci racconta che cos'è A9 Italia e come è nata, perché la storia è particolarmente bella. 349-238-6666 per i vostri sms. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, dicevo, Enzo Muscia, come nasce Anovo? In realtà non è che nasce, è frutto di un salvataggio dopo un fallimento, capito bene? Sì, sì, esatto. Anovo Italia, perché Anovo S.P.A. era la filiale italiana di una multinazionale che ha sede a Parigi, che finisce la sua storia nel 2011 licenziando qualcosa come 320 persone da un giorno all'altro a Saronno, giusto? A Saronno, l'azienda si occupa di assistenza post vendita dei prodotti elettronici, quindi coloro che gestiscono la garanzia dei nostri telefoni, dei computer, televisori e tutto quello che è, diciamo, gli apparecchi elettronici di consumo. Dicevo, finisce la storia di Anova S.p.A. nel 2011 quando ci informano che la corporate ha deciso di tagliare la filiale italiana e quindi vi chiude. E quindi si chiude, decide di chiudere un'azienda che fa utile, un'azienda che ha un portafoglio clienti di tutta eccellenza, che non ha nessun problema e quindi che non c'era nessun sentore di... Cosa fa Anova e cosa faceva Anova? Si occupa di assistenza post vendita dei prodotti elettronici, vuol dire che i nostri televisori, i nostri computer e i telefonini, una volta che si guastano, se si dovessero guastare nel periodo di garanzia, quindi i canonici due anni, vengono raccolti e centralizzati in questa azienda qui in Varese e vengono riparati, rinnovati, rimessi a nuovo e restituiti al quindi cliente. Torniamo al 2012, insomma, vi dicono che vi chiudono 320 dipendenti a casa, voi cosa fate? Noi non possiamo fare niente se non che diciamo così, sposare l'idea del curatore fallimentare che dice va bene, porta avanti il fallimento, ma siccome qui c'è tanta competenza, tanto know-how, c'è potenzialmente lavoro, facciamo così, creiamo un fitto di ramo d'azienda di un anno e proviamo a vedere se se riusciamo a ricollocare quella che è la nuova S.p.A., la fallita. Sì. Questo succede con il sottoscritto che rassimola qualche persona, per qualche persona intendo una ventina, perché il business che era rimasto aveva quelle dimensioni. Facciamo un anno di fitto ramo d'azienda, ma nel frattempo nessuno è interessato a ricapitalizzare la nuova S.p.A. Cioè, ho ben capito, voi mettete i soldi, lei ha messo dove li ha trovati i soldi? No, questo succede dopo il fitto di ramo d'azienda che non funziona, nel senso che nessuno è interessato a ricapitalizzare quella che è in fallimento, il curatore deve chiudere, finisce a tempo determinato, quindi dopo un anno, novembre 2012, ci chiudono, quindi anche noi 20 andiamo a finire in cassa integrazione insieme agli altri 300 dell'anno precedente. È qui che avviene la svolta dove io decido, dopo una diciamo breve riflessione, che cosa posso fare visto il know-how, visto la potenzialità che abbiamo, la competenza che c'è, delle risorse italiane per far sì che il lavoro rimanga qui in Italia. Metto tutto quello che ho in gioco per poter acquisire tutto quello che ha, cosa vuol dire, i suoi risparmi? Qualche risparmio e la casa, perché ho messo dentro la casa per ricevere quello che è il finanziamento utile. E quindi con questo immagino che abbiate acquistato anche dal curatore fallimentare i macchinari. Senta, a questo punto saltiamo al 2016, come va e quante persone siete riusciti a riassumere? Allora, siamo partiti in 8 più il sottoscritto, oggi siamo in 34. Bene. E le persone integrate, ricollocate, sono tutti i miei ex colleghi che erano andati. Ma avete anche raddoppiato il fatturato rispetto a prima? Abbiamo raddoppiato il fatturato, tanta fatica, ci sono buone prospettive, lavoriamo tanto per far sì che rimanga qui e la competenza e quindi il lavoro, e chiediamo che le grosse aziende nel nostro settore ci diano un po' di fiducia. Ma le banche vi hanno aiutato o no? Assolutamente, la banca assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente no, la banca ai tempi mi ha detto: Musa, è l'imprenditore, lei che ci deve credere, lei che deve mettere il tempo. Sì, va bene, solito discorso delle banche. Vabbè, esatto. Non voglio arrabbiarmi nel finale, in bocca al lupo a lei, ai 34 dipendenti, sperando che possiate riassumerne altri in cassa integrazione. Lo dico io perché lei è una persona modesta, oltre che modesta nel senso positivo, oltre che seria. Lei è stato anche premiato dal presidente Mattarella per l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Bene, bravo Mus. Lei e Muscia e bravi anche tutti i dipendenti. Andate avanti perché mi serviva una botta, io dico, di Prozac nel finale con questo. Grazie ancora, in bocca al lupo a tutti i dipendenti della Anovo SRL. E invece posso solo fare un anticipo di quello che tratteremo a questo punto lunedì con Lorenzo Codogno, già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma e ora fondatore della LC Macro Advisor, oltre che visiting professor London School of Economics. Codogno, buonasera. Buonasera. Io, la domanda che ho, poi approfondiamo la prossima settimana, tra Financial Times ed Economist, ma possiamo almeno dire che regna molta confusione sugli effetti di questo referendum, non solo da noi ma anche nella stampa, altissima stampa britannica? Ma sicuramente sì, ma teniamo presente che questa non necessariamente è la linea del giornale, forse nel caso dell'Economist sì, ma certamente non nel caso del Financial Times. Sono giornalisti che ovviamente, oppure opinionisti che esprimono la loro opinione, che non necessariamente comunque esprime anche il consensus che esiste al di fuori dell'Italia. Detto questo, è chiaro che c'è molta preoccupazione in giro per il mondo per quello che sta accadendo in Italia in questo momento, e quindi è chiaro che è un momento abbastanza delicato, non solo per la stabilità politica ma anche per la stabilità finanziaria, quindi ne parleremo la settimana prossima, ma questo è il vero punto. Infatti oggi, come ricordavo prima con i titoli, Monte dei Paschi meno 13%, ma mi dica solo un'ultima cosa, non è stato un errore legare gli aumenti di capitale, Monte dei Paschi, Unicredit e tutta questa attesa al dopo referendum? Non si aumenta la speculazione e la tensione? Ma però sarebbe stato molto difficile farlo anche prima, nel senso che è chiaro che bisogna avere una situazione di stabilità politica per fare questo tipo di operazioni che sono molto delicate e rischiose, quindi chiaramente bisogna aspettare l'esito del referendum. Allora, lunedì ci racconterà, con chiaramente più tempo, ci mancherebbe, le diverse opinioni, perché ripeto, non è intuitivo vincono e no, speculazione negativo vincono e sì, speculazione in positivo. C'è anche chi dice è importante vedere le proporzioni con cui vince uno, con cui vince l'altro, per capire se poi si andrà o no a elezioni. Insomma, la situazione si complica anche nell'analisi. Ringrazio per adesso Lorenzo Codogno, Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Auguro a tutti voi un buon fine settimana, a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.